A tempo di sport. Dunque torniamo molto rapidamente con i risultati finali. Ne è cambiato uno proprio al 50° del secondo tempo, quindi nel periodo addirittura non più collegato. Gomez ha dato la vittoria al Catania 2-1 sulla Roma. Questo cambia un pochino la classifica, ma non di molto, sono solo suggestioni, perché la Roma non ha ancora la matematica certezza dell'Europa League e la Juventus non ha ancora la matematica certezza del contrario, cioè dell'esclusione definitiva dell'Europa League, ma devono verificarsi varie combinazioni, cioè sconfitta della Roma in casa con la Sampdoria nell'ultima giornata e vittoria contemporanea della Juventus nell'ultimo turno con il Napoli. Però i risultati sono questi: Lecce vince 2-0 a Bari ed è matematicamente salvo, il Catania batte 2-1 la Roma, il Cesena batte 1-0 al Brescia, l'Udinese vince 2-0 a Verona con il Chievo, 1-1 all'ora di pranzo tra Fiorentina e Bologna, il Parma condanna la Juventus 1-0 alla decima sconfitta stagionale, il Palermo vince 2-1 a Genova con la Sampdoria e condanna invece i doriani alla matematica retrocessione in Serie B. Questi verdetti sono praticamente un'ultima giornata che vivrà solo sull'ultimo sprint verso il quarto posto. Ma a proposito di sprint, io voglio riprendere là dove ho interrotto prima del giornale radio, cioè dal Giro d'Italia e dalla coltellata di Contador, tappa che si è appena conclusa sull'Etna. Poi torniamo sui discorsi calcistici. Per Augusto Stagi. Sì, più che coltellato, uno sparo, il tipico gesto che Alberto Contador fa per ogni vittoria. In realtà oggi ha colto la sua prima vittoria al Giro d'Italia, perché quando vinse il Giro d'Italia lui lo vinse grazie ai tempi, grazie alla regolarità, grazie ai suoi acuti ma mai portati a termine con una vittoria di tappa. Oggi invece è arrivata anche la vittoria di tappa, una vittoria netta, senza esclusione di colpi, quattro scatti micidiali, quattro scatti per far fuori tutta la concorrenza, secondo Ruano, l'ultimo a resistervi praticamente a 500 metri dal traguardo, quando Contador, dopo aver sempre tirato lui, si è scrollato di dosso anche il piccolo scalatore venezuelano, terzo Stefano Garzelli che regola il gruppetto di Nibali a 50 secondi, Nibali appunto quarto. Ora adesso in classifica generale la maglia rosa, neanche a dirlo, è sulle spalle di Alberto Contador, che era all'inizio di questo giro il padrone di questo giro, adesso a tutti gli effetti gli hanno dato anche le chiavi e quindi da domani, che è giorno di riposo, diciamo da dopodomani, sarà l'uomo che dovrà controllare la corsa e gli altri cercare in qualche maniera di mettere in difficoltà il fuoriclasse spagnolo, che ricordiamo ha già nel palmarès 3 Tour de France, un Giro d'Italia e una Vuelta in Spagna, sì. E nel mirino il suo secondo giro. Nibali è quarto a 1.21, Scarponi non bene, oggi ha pagato, comunque in classifica generale è quinto, è sceso a 1.28. Benissimo, grazie per Augusto Stagi, che ritroveremo alle 18.45 nell'ultima finestra del nostro programma, che sarà appunto dedicata al Giro d'Italia. Però adesso siamo in attesa anche di un ospite a commento di questa tappa e di questa prima settimana di giro. Intanto vedo che sta parlando con Sky, prima a presentarsi ai microfoni, Gigi Del Neri, non so se sta rassegnando le dimissioni, non credo. Ha fatto quello che poteva quest'anno come concetto di acquisizione di giocatori, perché doveva fare un cambiamento radicale, sia un fattore economico che un fattore di età. E quindi mi ha cercato un po' di. La società penso abbia cercato di vedere cosa poteva andare a raccogliere sul mercato in questo senso, quindi ha fatto il possibile. Poi è chiaro che la Juventus vuole sempre vincere, sempre vuole sempre ottenere grandi risultati, i tifosi prendono questo, ed è chiaro che la delusione mi sembra sia proiettata proprio da questo fatto qua. Ma però torno a ripetere, non è che non che non siano giocatori di Juventus, devono avere qualità, a parte qualcuno tipo Melo che ha magari già esperienze, ma deve avere del tempo per poter sapere cos'è la Juventus, insomma. Quindi mi sembra che è abbastanza chiaro questo. Resta da capire se Del Neri è un allenatore da Juventus, lo chiedo a voi, 800 24 00 24. Io vi dico che Del Neri già da qualche tempo non è più l'allenatore della Juventus e stiamo aspettando di capire chi prenderà il suo posto, anche se l'avrete sentito in settimana, ma quante probabilità ha di restare alla Juventus? Il 100%, ha detto Del Neri, ben sapendo di mentire, di dire una bugia, perché sa perfettamente che non andrà alla Juventus l'anno prossimo. Dunque, riepilogando, doppietta di Jeddah che dà la salvezza alla Lecce 2-0 a Bari. La Roma passa in vantaggio a Catania con Loria dopo 14 minuti, ma nella ripresa viene raggiunta e superata da Bergessio al 33esimo e da Gomez al 50esimo, quinto minuto di recupero. Dunque il Cesena batte 1-0 il Brescia con un destro di Giaccherini deviato e timbra così la sua meritatissima, a mio parere, salvezza. Qui l'Udinese batte 2-0 Chieva-Verona, Isla in mischia al 28esimo dopo una traversa clamorosa colpita da Di Natale pochi minuti prima, un Udinese che ha fame, che ha voglia di quel quarto posto e secondo me lo prenderà meritatamente anche in questo caso. 30esimo la ripresa, magnifico gol di Asamoah per il 2-0. Giovinco condanna, come ho detto, la Juventus, 20esimo, gol più bello di giornata per la verità, con un destro in corsa nel 7esima sconfitta per la Juventus. La Sampdoria si scava la fossa con il Palermo, perde 2-1, gol di Miccoli al 46esimo del primo tempo, pareggio di Biabiani al quarto e gol di Pinia al 41esimo della ripresa. Sampdoria matematicamente in Serie B. Vorrei tornare sul tema della vittoria di Contador con un ospite d'onore, direi, Giorgio Squinzi, cioè l'uomo che si è inventato un ciclismo nuovo e diverso con la sua Mapei. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno. La coltellata di Contador, o per Augusto Stagi l'ha definito lo sparo di Contador, mettiamola come vogliamo, però la prima settimana di Giro d'Italia sull'Etna si conclude con il grande favorito. Sicuramente direi che la botta di oggi è una botta quasi definitiva. Sarebbe una sorpresa se poi Contador non arrivasse a Milano in maglia rosa. Oggi ha dimostrato di essere nettamente superiore a tutti. Quando lui ha aperto il gas non è esistito più nessuno. Nibali è ridimensionato dalla tappa di oggi. Nibali ci potrà credere ancora? Nibali è ridimensionato, ma ridimensionato ancora di più Scarponi. Ah, certo, certo. Senta, ma secondo lei è possibile il triplete nel ciclismo di oggi? Perché l'altro giorno discutevo con Angelo Zomegnan, insomma, Contador che ha questo grande sogno di tripleti, tre grandi giri, a me sembra una cosa pazzesca. Ma non credo che il triplete mi sembra piuttosto improbabile, però il doppio, il doblete si può fare sicuramente, o il giro e la Vuelta, o il giro e Tour sarebbe già un qualcosa di assolutamente eccezionale. Sicuro. Però non dimentichiamo che Contador negli ultimi anni è il vero campione dei grandi giri e a lui tutto o quasi tutto è possibile. Sì, anche se bisogna aggiungere subiudice, Presidente. Lei lo sa meglio di me. Se bisogna vedere come vanno poi con le squalifiche, con le condizioni al contorno che sono sempre di difficile comprensione. Sicuro, non ci resta che aggrapparci a Ivan Basso per il Tour. Ivan, io personalmente ci credo moltissimo, sarebbe bellissimo, perché Ivan è uno che ha pagato qualche errore del passato, Contador no, però non so, vediamo, speriamo. Comunque in Ivan io ci credo, si sta preparando molto bene, sì. È seguito tra l'altro anche dal centro Mapei di Castellanza, sì. Quindi sicuramente lo vedremo. Senta, lei trova che questo sia stato un giro di questa prima settimana sia stata pericolosa? Sappiamo che è stata luttuosa certamente, tragica certamente, ci sono state polemiche da questo punto di vista. Secondo lei è stato pericoloso questo avvio di giro? No, non direi che non bisogna drammatizzare, sicuramente è stato tragico, ma quello che è successo è stata una tragica fatalità in una discesa che non era particolarmente impegnativa e quello che è successo è proprio una maledetta coincidenza. Certo. Una maledetta fatalità. Prima di salutarla, Presidente, mi permette una digressione calcistica, perché credo che oggi non ci sia milanista più felice di lei. Ha festeggiato lo scudetto con l'allenatore che lei ha trovato a Sassuolo. Con Massimiliano Allegri avevamo un grande Sassuolo. L'ha chiamato? Lo chiamerò domani, oggi credo che siano ancora... però l'avevo visto anche recentemente... Massimiliano è un grande allenatore. Cosa ci ha trovato in lui quando l'ha ingaggiato? È la capacità di fare il risultato, la concretezza, la capacità di superare i momenti difficili. Mi ricordo che l'anno in cui ci portò dalla C1 alla B, cioè ci fu un momento di difficoltà a tre quarti del campionato, ma lo superò e passammo in anticipo in Serie B. Veramente è una persona estremamente concreta, che sa tenere in pugno la squadra, sa fare le cose giuste al momento giusto. Presidente, io la ringrazio, torneremo a disturbarla nel corso del giro, con il con suo piacere. Permesso. Grazie. Grazie. Grazie a Giorgio Squinzi, ci fermiamo per il traffico, subito dopo torneremo insieme con i primi due ascoltatori di oggi, Luca e Mirko da Torino e da Forlì rispettivamente. 800 24 00 24, vi aspetto numerosi oggi, mi raccomando, perché i temi mi sembra siano tanti, davvero tanti, vi aspetto qui. Cerved Group, il punto di riferimento per un business sicuro e competitivo, vi presenta Strade in diretta. Sul tratto appenninico dell'Autosole ci sono code per un incidente tra Roncobilaccio e Rioveggio in direzione nord verso Bologna. Sempre in A1, ma in Lazio, ci sono code per un altro incidente tra Anagni e Colleferro verso Roma. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code per un incidente tra Orcofellino e Spotorno verso Genova. E ricordiamo che la 10 è chiusa per le intense raffiche di vento a Teronati, Furgoni e Caravans tra Genova Voltri e Savona. Sulla 14 Adriatica si rallenta per incidente tra Bologna-San Lazzaro e raccordo Casalecchio verso l'Autosole. Sempre nella 14 rallentamenti per lavori tra Fermo e Civitanova Marche in entrambe le direzioni, mentre chi viaggia in direzione di Bologna incontra code a tratti per traffico tra Cattolica e Rimini Sud. Traffico intenso anche verso la capitale sulla diramazione Roma Sud con code tra Torrenova e la Grande Raccordo Anulare. Ed è tutto per il traffico, Strade in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Parlando Montella con Sky, cosa dice? La squadra è venuta giù, ripeto, con mille difficoltà e se ne sono aggiunte molte altre in partita. Ha ricordato queste difficoltà, Ilaria, Vincenzo Montella giustamente, però mi viene una domanda, Montella. Tutte queste difficoltà fisiche significa che questo gruppo è alla fine del suo ciclo storico? Ora non bisogna essere lucidi per analizzare le cose. Se Max S si fa i crociati non è colpo del fisico, succede. Se Brighi c'è una frattura al pero non è un intervento di gioco. Se Greg ha avuto una distorsione al ginocchio ci può stare. Vucinic c'ha avuto una cisti infiammata, quindi potrei continuare, quindi mi fermo qua. Sì, potrebbe continuare a fare l'elenco dei soggetti da ospedale o da infermeria, però resta la convinzione che questa Roma sia alla fine di un ciclo e un altro ne dovranno aprire i nuovi proprietari a stelle e strisce, perché è inutile fare la conta degli infortunati, perché mi sa tanto di giustificazione di maniera. Tutti hanno avuto un sacco di infortunati, quindi tutti hanno avuto un sacco di giustificazioni possibili. Questa Roma è chiaramente una squadra che è alla fine di un ciclo in cui avrebbe probabilmente meritato di raccogliere uno scudetto, non c'è riuscita Da lunedì prossimo si cambierà tutto, compreso allenatore, io credo. Classifica, prima di cominciare a parlare con gli ascoltatori: Milan 81, campione d'Italia, Inter 72, Napoli 68, manca un punto al Napoli per blindare il terzo posto. Udinese 65, Lazio 63, Roma 60, Juventus 57 e, come vi ricordavo prima, è solo la matematica, è una lontana e impossibile suggestione a tenere ancora la Juventus in corsa per l'Europa minore. Vedi tu quale traguardo sia possibile. Insomma, Juventus 57 dovrebbe battere in casa al Napoli, sperare che la Roma perda in casa con una Sampdoria già retrocessa. Palermo 56 che sarà in Europa League in virtù della finale di Coppa Italia, Fiorentina 50, Genoa 48, Catania 46, Parma 45, Cagliari 44, Chievo e Cesena 43, Bologna 42, Lecce 41, tutti salvi perché retrocedono matematicamente Sampdoria 36 punti, Brescia 31, Bari 21. Luca da Torino, buonasera. Sì, buonasera, dottor Gente, è un piacere. Reciproco. Diciamo che siete anche fastidiosi da quanto siete bravi. Addirittura, basta che non cambia canale. Speriamo di non dare troppo fastidio. Insomma, se vuole gridiamo un po'. Allora, Contador vincerà il giro, vincerà quello che potrà vincere, ma secondo me non dovrà essere qui. Questo è il mio pensiero, proprio così, tranquillo. Sì. E poi... Quindi lei non crede nella possibilità di una rimonta di Nibali, di una sorpresa di Nibali? Io Scarponi ci credo un po' meno in realtà, però insomma Nibali mi dà la sensazione di essere un corridore con maggiore talento e con anche esperienza di vittoria dopo la Vuelta. Lei non lo vede? No, io guardo il problema etico che mi dà molto fastidio. E quindi dico che questo corridore, come tanti altri, non dovevano essere qui. Che se andassero, visto che già Valverde rifiuta di valicare le Alpi, quindi sì, mi sembra proprio. Qui secondo me la Gazzetta ha sbagliato, visto che Vediamo certamente questa è una spada di Damocle che pende sul Giro e su Contador stesso, poi che sia fatta giustizia. Parliamo d'altro, dica. Parliamo l'altro concludiamo col campionato che è stato, diciamo così, mediocre, perché anche se è abbastanza vincente, ma adesso si comincia a parlare di mercato. Sento da certa stampa che l'unica squadra che deve mettere a posto i conti, che deve ringiovanire, che deve rinnovare, è l'Inter. Quando vedo una Juve che non ho parole, quasi quasi mi dispiace da interista. Sì, la Juventus è una situazione imbarazzante. Il Benvenico in leasing, dice tra 30 anni. Adesso io aspetto 2 anni, perché il fatidico scoglio del 2014 arriverà per tutti. Sì. Quindi penso che molte cose, anche in Europa, spero, che cambino. Ma io non metterei troppa enfasi su questo 2014 e su questo discorso dei conti da sistemare, perché poi vediamo che succede. Più che altro è la necessità di provare a gestire il calcio in maniera diversa. No? Questo sarebbe un discorso troppo lungo da affrontare in un programma che segui i battiti della cronaca come questo. Insomma, c'è tempo e spazio durante la settimana. Io continuo a pensare che il calcio debba essere nei paesi di grande calcio. L'Italia è rimasta l'unica che gestisce il calcio come 50 anni fa, no? Come sappiamo, discorso degli stadi, discorso di tutte le attività collaterali che sono gestite in maniera un po' così, compreso il leasing dei giocatori e quant'altro. Quindi sarebbe un discorso molto lungo da affrontare. Campionato mediocre non saprei. Io mi sono abbastanza divertito in questa stagione, in questo campionato, poi non riesco a capire dove debba essere trovato il parametro del valore assoluto di un campionato. Secondo me è stato un campionato divertente. Poi mi sembrano abbastanza discorsi da bar, quelli innescati ad esempio da Capello, eccetera, eccetera, campionato vero, campionato falso e così via. Io quest'anno mi sono divertito più delle ultime stagioni, dove di pathos ce n'è stato pochino. Mirko da Forlì. Salve, signor Presidente. Innanzitutto ha già risposto a una delle mie domande. Io non capisco perché si definisce un campionato mediocre questo. Quando vediamo la Spagna, che lì c'è veramente da dormire, se vediamo il campionato spagnolo. Poi volevo, da estimatore di Ronaldinho, volevo darle ragione, perché alla fine ha avuto ragione lì, lei. Torniamo. Ma no, si tratta di ragione o torto, insomma. No, mi sembra che Ronaldinho fosse un giocatore molto divertente, non c'è dubbio. Sia stato il giocatore più forte del mondo per un certo periodo. Quello che abbiamo visto qui non è mai stato Ronaldinho, nemmeno l'anno scorso, quando si contavano gli assist, anche quando erano semplicemente palloni che vagolavano per l'area, magari dopo essere stati strusciati da Ronaldinho. Insomma, è anche un giocatore che ha avuto una discreta stampa da noi. A me, nemmeno l'anno scorso, quando tutti dicevano "ah, ecco il vero Ronaldinho", a me mai è sembrato il vero Ronaldinho sui nostri campi, ed era condizionante per il Milan, perché, come ho detto qualche altra volta, ma senza voler insistere o esagerare, era una tassa che per il Milan dell'anno scorso veniva pagata tutte le partite e pagavi dividendi, era un investimento che pagavi dividendi una volta ogni tanto, quindi era molto pesante da sostenere. E Allegri è stato bravo nel gestire, diciamo così, questa situazione. Mirko, mi ha stupito molto in questo senso Robinho. Sì. Non mi aspettavo un Robinho così. E poi l'ultima domanda, come lo vede il Palermo in finale? Ma il Palermo in finale lo vedo molto bene. Io non capisco molto relativamente questi continui battibecchi tra Zamparini e Delio Rossi, che ritengo un grandissimo allenatore, probabilmente non un allenatore da top club europeo, ma anche perché quello è un mestiere un po' diverso. Poi possiamo parlarne se volete, perché allenare un grande club è un mestiere un po' differente rispetto ad allenare qualunque altra squadra, e ci vogliono determinate caratteristiche anche, insomma, di emotive, di carisma, di esperienza e così via. Il Palermo in finale di Coppa Italia io in realtà lo vedo molto bene, perché è una squadra che ha il talento necessario, soprattutto in una partita secca, per dare un tremendo fastidio anche all'Inter. Certamente l'Inter avrà più pressione addosso rispetto al Palermo. Dunque non la vedo tutt'altro che scontata questa finale dell'Olimpico. Guidolin, che io invece vedo in Champions League l'anno prossimo. Ci hanno seguito, sono stati tantissimi tifosi che hanno partecipato, che hanno vissuto questa bella nostra vittoria. Ma allora ho pensato subito che è meglio rinviare eventualmente il festeggiamento, perché noi non possiamo permetterci di festeggiare, perché ci manca un punto. Indubbiamente il risultato di Catania è un risultato che abbiamo come dire, sul quale abbiamo gioito, non me ne voglia né Montella né la Roma, ma insomma nello sport è così, però noi in questo momento siamo in paradiso senz'altro, ma non siamo ancora entrati nel paradiso. Beh sì, perché la matematica ancora non ha aperto le porte del paradiso, ma le aprirà, stia tranquillo Guidolin. Marco Milano, buonasera. Buonasera, la chiamo dalla macchina, sto tornando dal weekend. Sì. Io ho due figli, uno che tiene al Milan e uno che tiene alla Sampdoria. sono io che sono tipo milanista con mio papà. Sì. Allora, quello del Milan ha già vissuto tantissime gioie, io con lui. Quello della Sampdoria è la seconda tragedia. E la mia domanda è questa. Beh, innanzitutto, Milan, penso che la svolta sia stata la partita con Inter. La partita con l'Inter. Sì, certo, è stata la partita chiave dello scudetto, certo. La partita chiave dello scudetto, poi tu ha sbagliato quel calcio amaroso. Vabbè. Però, insomma, lì c'è stata la svolta. La Sampdoria, la cacciata di Cassano, trovo che sia stata giusta, perché l'educazione viene prima di qualunque altra cosa. Sì. Infatti mio figlio, il grande, ha scritto una lettera al presidente Garrone dicendo che aveva ragione, che però se almeno poteva ritenerlo, perché era l'unico grande campione che dopo uno o due anni non andava via dalla Sampdoria. Sì. Però io quello che volevo domandare è questo: Pazzini perché l'ha venduto a una cifra così bassa per prendere Biabiani, che non ha fatto molto? Marco, no, io non posso dare una risposta su questo punto, è stato un grave errore. Certamente sono stati sbagliati i conti anche sul valore di quelli che sono arrivati, perché su Makeda io credo venissero fatti altri conti, no? È stato un giocatore irrilevante in questa sua esperienza sampdoriana, in cui campo l'abbiamo visto pochissimo. Alla fine la Sampdoria si è trovata a combattere con la salvezza, con una squadra. Lei sa benissimo, no? Che quando si comincia a prendere quella china è molto difficile invertire la marcia. Ebbene, la Sampdoria si è trovata in quelle condizioni con attaccanti che onestamente erano da Serie B o quasi. Povero Pozzi, che ci ha dato l'anima in questo finale di campionato, poi gli altri, Maccarone, Makeda, per l'appunto irrilevante, Biabiani alla prima esperienza o all'alba della sua esperienza nel calcio che conta. È una squadra che ha cambiato allenatore inutilmente, che non ha mai saputo trovare nemmeno un abbrivio in grado di, nemmeno una piccola spinta in grado di portarla verso la salvezza. Sembrava quasi fatale la retrocessione della Sampdoria e di fatto si è verificata. Però dica a suo figlio di resistere, perché è bello tifare anche per questi club che portano con sé un po' di sofferenza. Ci fermiamo da masochisti quali siamo tutti noi, no? Chiamiamo il calcio. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. A 150 anni dall'Unità d'Italia si combatte ancora per vincere lungo i 3.496 chilometri che uniscono Torino all'Etna e Messina a Milano. Il Giro d'Italia su Radio 24. Da sabato 7 maggio, durante tutti gli appuntamenti di A Tempo di Sport e gli speciali dei GR delle 7, delle 13 e delle 19. Per entrare in corsa, per vivere i battiti di ogni volata, per respirare la sofferenza di mille salite e conquistare la maglia rosa. Il Giro d'Italia su Radio 24. Da lunedì a venerdì alle 14, il sabato alle 17 e la domenica alle 16.30. In collaborazione con Ford. Il mio primo socio, dopo un po', ho scoperto che non era affidabile. L'altro non reggeva il peso del lavoro. Oggi ho scelto Ford Transit, una garanzia per 200.000 chilometri. Ford Transit, socio inseparabile. Da oggi con garanzia Ford Protect, 5 anni o 200.000 chilometri, disponibile su tutta la gamma. Transit Van 2002 TDCI con clima e radio CD a 14.000 euro, per tutti. 5 secoli fa Martin Lutero avviava un percorso rivoluzionario per il cristianesimo. Oggi la Chiesa Luterana è prima per numero di membri in molte nazioni. In Italia siamo una piccola realtà di 7.000 credenti, sostenuta però dall'8 per 1.000 di oltre 40.000 italiani che hanno fiducia nella nostra opera. Per la sanità, la scuola, i poveri, gli immigrati, aiutaci a fare di più. 8 per 1.000 per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, una Chiesa capace di evolvere con la società. www.chiesaluterana.it Campagna sociale. Novità da Mapei. Mapelastic Aqua Defense è la nuova membrana liquida elastica di Mapei contro le infiltrazioni d'acqua. Aqua Defense è il primo vero monocomponente pronto all'uso. Impermeabilizza balconi, terrazze, bagni e ambienti umidi. Aqua Defense asciuga rapidamente e permette di piastrellare dopo solo 4 ore. Veloce, semplice e sicuro, garantisce un risparmio concreto e un pieno rispetto dell'ambiente. Mapelastic Aqua Defense, la nuova difesa rapida contro l'acqua. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reforma. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reforma. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti perché il gruppo Credit Reforma è la prima società di recupero crediti del mondo con 533 milioni di euro di fatturato. Con Credit Reforma, il vostro credito è sempre al primo posto. 800-425-325 o creditreforma.it. Signorina, sa che ore sono? Sì, le 3. E adesso che ore sono? Ma insomma, sempre le 3. Perché continua a chiedermi che ora è? Perché non vedo l'ora che inizi la festa dell'usato delle chilometri zero Fassina, sabato 21 e domenica 22 maggio. Pensi, centinaia di vetture di tutte le marche e un buono sconto di 500 euro per l'acquisto. Incredibile, vero? Ah, adesso ho capito. Faccio come lei. Vengo anch'io alla festa dell'usato e delle chilometri zero Fassina, sabato 21 e domenica 22 maggio. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. L'intensa perturbazione che oggi ha attraversato il centro-nord si sta spostando verso le nostre regioni meridionali. In particolare nella giornata di domani nuvole e piogge insisteranno sul medio adriatico e al sud, con fenomeni localmente anche intensi. Invece tempo in netto miglioramento al nord sull'Alto Tirreno e in Sardegna. Vi segnalo sempre per domani anche venti sostenuti al centro-sud. Chiudiamo con le temperature previste in diminuzione nelle regioni meridionali in tutta Italia. Non andremo oltre i 22-23 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli su meteo.it. C'era una volta l'energia, costosa, sprecata, ma necessaria. Poi arrivò Mr. Kilowatt. Mr. Kilowatt, il programma che ti aiuta a risparmiare e usare l'energia in modo consapevole ed ecosostenibile. Mr. Kilowatt, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24. In collaborazione con EDF Ener Solare, impianti fotovoltaici, la vera alternativa. Che forza gli squali! Tornerai giù altre mille volte! Se vuoi divertirti di più, puoi rimmergerti senza gabbia. Ma dai, spegni! Scherza! Senza sicurezza c'è poco da divertirsi. Subaru Forester Widget 2011, 4.000 euro di vantaggio e un allestimento più ricco. Da 25.980 euro, anche con finanziamento fino a 20.000 euro in 48 rate da 469,25 euro. TAN 2.9 TAG 3.96. Fino al 31 maggio, salvo approvazione istituto erogante, info negli showroom aderenti. Certi mercati sono irrequieti, difficili da domare. In tanti cercano di avvicinarli. Noi li cavalchiamo da anni. Anche nei mercati remoti del mondo c'è un gestore Ubipra America pronto a farti cavalcare le opportunità per i tuoi investimenti. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, fatti guidare da chi conosce la strada. Ubipra America, tu alla guida dei tuoi risparmi. Ubipra America ti aspetta a Rimini a IT Forum il 19 maggio alle 14. Attenzione, prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. www.ubipraamerica.it. Con la nuova Xerox Color Cube 8570 in ufficio sono solo complimenti. Che stampe a colori eccezionali, anche su carta riciclata. Che belle scarpe, visto? E con Xerox Color Cube 8570 hai anche 200 euro di rimborso. Vai su xerox.it/promo. Con Domus di Maggio, immagina come unire due continenti. Progetta e invia la tua idea. Partecipa al challenge che ti porterà fino a Londra. In più, sul numero di Maggio, Jürgen Mayer e il suo provocatorio capolavoro architettonico a Siviglia. Domus è in edicola e su domusweb.it. Paolo Ciolini, Officine Meccaniche Ciolini SRL. La nostra azienda produce macchine per imballaggio. Per vendere su nuovi mercati abbiamo sempre utilizzato le fiere. Grazie al supporto esterno di un export specialist Homark, abbiamo capito che per acquisire nuovi clienti oggi servono strumenti innovativi. Con il suo intervento stiamo organizzando su diversi mercati esteri reti commerciali tagliate sulle nostre esigenze. Diventa anche tu un'azienda di successo con Comark. Comark 800 123 640. Comark www.aziendedisuccesso.it. Eccolo, dottore, una domanda sul Sistri. Ora in azienda non siete un po' stressati? Stressati noi, anzi, total relax. Anche il Sistri, zero problemi. Ah però! Logico, ci siamo affidati a Omnisist, i professionisti, e al servizio Total Relax, la gestione full service dei rifiuti industriali. Ah però! Un consiglio, infosistri.it, il loro sito. Infosistri.it, risolutivo. Ah però! Omnisist, il valore della responsabilità. A tempo di sport. Arstein. Yeah. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Rosso nero, rosso nero, shalalala. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Ma sì, tanto per divertirci un po', no? Tanto per far ballare qualche milanista. Mentre c'è Luigi che scrive: se per uno scudettino elettorale hanno messo in piedi quel circo, chissà cosa avrebbero fatto per il triplete. Però mi sembrano... mi sembra un messaggio un po' rancoroso, non so perché scudettino elettorale, magari poteva essere festa elettorale ieri sera, ma non in fondo nell'estate, al di là del messaggio pontificio proiettato su quel lenzuolo bianco a centrocampo. Mi sembra sia stato uno scudetto meritatissimo e solare, che non ha nulla dello scudettino, mi sembra uno scudetto vinto con totale merito. Poi possiamo discutere delle colpe degli altri, degli errori degli altri, della bravura di Allegri e del Milan, possiamo discutere di mille cose, però chiamarlo scudettino è qualcosa che non condivido. Non so se Marco Ansaldo è d'accordo con me, inviato da Stampe nostro amico. Ciao Marco! Ciao, ciao! Qualche ascoltatore parla di scudettino elettorale, non mi pare, mi pare sia uno scudetto strameritato quello del Milan, che non ha nulla dello scudettino, no? No, sicuramente. Poi che possa avere una funzione elettorale, questo non lo so, perché sì, questo è un paese in cui tutto può succedere. Però sicuramente è uno scudetto meritato. Il Milan è stata la squadra che ha avuto una grande dote, che è quella che fa vincere gli scudetti, ed è la continuità dei risultati. Ha avuto poche flessioni, e nei momenti di flessione è riuscita a gestire bene le cose in modo da uscirne al più presto possibile. Diciamo non tutti che... Marco, diciamo tutti che è stato lo scudetto di Allegri, che c'è molto Allegri in questo scudetto, eccetera, eccetera. Io posso individuare un passaggio in questa stagione del Milan, non so se sei d'accordo, il modo in cui il Milan si è affrancato dalla libera dipendenza. Tu di libera dipendenza ne capisci perché l'hai vista sia nella Juventus che nell'Inter, l'abbiamo visto all'inizio anche nel Milan, che poi si è affrancato da questa dipendenza ed è diventata una squadra diversa, che non prendeva più gol, che aveva... trovato con l'innesto di Van Bommel determinante altre dinamiche di centrocampo, e è riuscita a vincere lo scudetto prescindendo da Ibrahimovic per lo sprint finale. Beh, mi sembra corretta come interpretazione. Certo che siccome lo scudetto è fatto di tante fasi che si uniscono l'una all'altra, senza Ibrahimovic la prima parte, cioè tutto questo lavoro poi che è stato fatto da Allegri nella seconda parte, probabilmente sarebbe partito con un handicap di punti irrecuperabile, perché diciamo certo, che la prima parte l'ha vinta Ibra. Insomma. Assolutamente, ma è l'uomo che ha cambiato il vento, Ibra. Veramente quello che ha permesso al Milan di arrivare poi a costruirsi nel tempo senza perdere dei punti preziosi, anzi mantenendosi già in vantaggio nella prima parte del campionato. Poi Allegri è stato bravo, come tutti gli allenatori che arrivano in un posto nuovo, ha avuto bisogno di qualche tempo per sistemare le cose, ha avuto anche ad esempio bisogno di un po' di tempo per fare in maniera che portassero via quelle zavorre tipo Ronaldinho e cose del genere, che avevano solo più il nome e non certo, più la qualità e creavano anche tra l'altro dei problemi. Quindi c'è stata una crescita poi di Pato, c'è stato un ritorno enorme di Seedorf, ad esempio, un giocatore che nella prima parte assolutamente sì, non aveva reso nulla. C'è stata una diversa impostazione, ma aveva bisogno di tempo per sistemare le cose, e nel frattempo Ibra gli ha salvato la situazione. Certo, parlando degli sconfitti invece, l'Inter ha pagato una stagione sbagliata, ma comprensibilmente sbagliata, perché non c'è stato il coraggio probabilmente di rifare tutto un anno fa con la Coppa dei Campioni in mano. La Roma mi sembra a fine ciclo, al di là dell'elenco degli infortunati che ho sentito fare prima da Montella, ma mi sembrano scuse, no? Mi sembra l'elenco delle scuse, perché tutti ne hanno avuti e per mille motivi. Ma la Juventus, la stagione della Juventus non può più essere definita come deludente. A questo punto l'aggettivo necessario diventa imbarazzante. Beh, sì, perché è una squadra. Quando la Juventus andò in Serie B e tornò su, mi permisi di scrivere che ci sarebbero voluti 10 anni per tornare la squadra che era stata, e fui tacciato ovviamente di eccessivo pessimismo, anti-juventinismo e queste cose qui. Temo di essere stato ottimista invece, perché dopo i primi anni in cui la Juventus, che era ancora la Juventus costruita da Moggi, comunque riuscì a mantenersi seconda, terza e così via, adesso la nuova Juventus non solo non fa progresso, ma va sempre peggio e non riesce a trovare la chiave per sistemarsi. Questo è stato un altro anno buttato via. Non mi vengano a raccontare, adesso sentivo la conferenza stampa del Neri che diceva gli infortuni, anche lui batte sugli infortuni, ma gli infortuni l'hanno avuti tutti. Il Milan stesso ha avuto dei periodi in cui, voglio dire, quando non hai Pirlo per tutto il campionato, quando non hai Inzaghi per tutto il campionato e tutte queste cose lì, allora cosa si dovrebbe dire? Gli altri sono riusciti a sopperire a queste cose, la Juventus no, ha tentato di costruire una squadra completamente nuova. La cosa stranissima secondo me è che a novembre era una squadra alla quale si poteva dare credito. E poi dopo con gennaio invece di andare avanti è crollata. Sì. E in questo secondo me c'è la piccolezza della squadra, la piccolezza dell'allenatore, la piccolezza della società. Cioè io credo che a essere la Juventus bisogna anche avere la mentalità da grande squadra. In questo posto nessuno ha la mentalità della grande squadra. Verissimo, tanto che si fanno Del Neri non è più l'allenatore della Juventus, ma credo già da una ventina di giorni, no? Ma penso di sì. Ecco, si fanno nomi di allenatori che secondo me non possono avere la mentalità da grande squadra, semplicemente perché una grande squadra non l'hanno mai diretta, come Conte e come Mazzarri. Secondo me cambierebbe pochissimo. Alla Juventus secondo me servirebbe un personaggio di grande carisma, che sa come si fa a vincere e che è in grado tutto sommato di gestire anche gli umori di una piazza che non ha pazienza. Tu parlavi di 10 anni, ma è fatale che del tempo ci voglia per ricostruire. Il problema è che alla Juventus nessuno ne ha, nessuno può comprare questo tempo. Si può prendere, però può comprare un grande personaggio in grado di catalizzare l'ambiente. Sì, ma chi? Chi è? Sarebbe Villas-Boas per caso? No, però l'idea Mancini poteva starci, secondo me. No, l'idea Mancini poteva starci, ma secondo me è un pazzo Mancini se si toglie da dov'è per venire alla Juventus. Tra l'altro, il problema vero che io vedo nella Juventus per il futuro, se non si sbriga a tornare ad essere una squadra, vedi, poi alla fine la gente certo vorrebbe vedere la Juventus vincere, ma sarebbe già contenta comunque di vedere una Juventus che lotta fino alla fine per lo scudetto, cosa che non è mai successa. Una Juventus che va avanti un po' in Champions League, cosa che non ha mai fatto, e così via. Io credo che sia molto difficile oggi per la Juventus trovare dei grandi allenatori e trovare dei grandi giocatori disposti a venire qui. Cioè, ma ad esempio si fa il nome di Tevez, lo leggo da tante parti, io non mi occupo, grazie a Dio, più di mercato e quindi sono un lettore oramai. Allora, ma perché Tevez deve venire alla Juventus? Se si mette sul mercato può andare ovunque, in squadre che giocano la Champions, in squadre che lottano per lo scudetto, ma perché dovrebbe mai venire alla Juventus? Certo. E così no, Benzema e tutta questa gente qui, cioè quella gente lì va dove ha l'impressione di poter andare in una società importante, dove ha una grande vetrina, dove ha una situazione che permette di vincere. Cioè, sì, stiamo più avanti con gli anni, più la Juventus rimpicciolisce e rischia di diventare, poi andando avanti di questo passo tra 3 o 4 anni, una vecchia gloria, no? Sì, sì. No, ma non è una grande squadra europea in questo momento. Della grande squadra europea resta solo il passato e il colore delle magliette, non c'è dubbio su questo, tanto che mi ricordo manco più il colore delle magliette, perché ormai la maglia bianconera non la usano più. Gli unici bianconeri sono rimasti quelli dell'Udinese, che infatti andranno in Champions League. Marco, grazie, buon lavoro. Ok, ciao. Un abbraccio, grazie a Marco Assaldo. No, mi dicevo la situazione della Juventus, ma poi ne parliamo con calma, mi ricorda molto quella del primo Chelsea di Abramovic, no? Molti soldi, ma anche del Manchester City, ha molti soldi da spendere, però vuoi il grande campione dice perché devo venire da te? Serve naturalmente qualcuno che apra la via, che possa indurre gli altri a seguire quel progetto. Certamente la Juventus è una squadra che ha bisogno di molto tempo e di una profonda ricostruzione. Purtroppo il tempo non c'è, ne stiamo parlando ora. 800 24 00 24, Nicola da Reggio Emilia già in linea, ci sentiamo dopo il traffico. Strade in diretta. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono 6 km di coda per un incidente tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta per un altro incidente tra Sirmione e Desenzano verso Brescia. Sul tratto appenninico dell'Autosole ci sono code per un incidente risolto tra Barberino e Pian del Voglio verso Bologna. Mentre sulla 14 Adriatica si rallenta per un incidente tra Bologna-San Lazzaro e raccordo Casalecchio verso la 1. Sempre una 14 code per lavori tra Fermo e Civitanova Marche nelle due direzioni. Chi viaggia in direzione Bologna incontra code per traffico tra Cattolica Rimini Sud e tra Faenza e Imola. E segnaliamo che la 14 Adriatica resterà chiusa questa notte per lavori dalle 22 alle 6 tra Fano e Marotta in carreggiata sud. Traffico intenso di rientro attorno alle grandi città, soprattutto verso la capitale sulla diramazione Roma Sud, dove ci sono code tra Torrenova e la grande raccordo anulare. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento di Strade in diretta tra mezz'ora. A tempo di sport. Nicola Reggio Emilia, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Senta, ecco, premetto che io sono un interista di quelli sfegatati, no? Sì. Nonostante comunque negli ultimi anni, diciamo che è andato un po' svanendo questa voglia di tifare, perché insomma lo sport, diciamo, che è diventato più una cosa economica che uno sport per eccellenza. Però volevo dire, no, caso o non caso, lo scudetto del Milan non poteva capitare in un momento migliore, no? Sì. Ma a me ha colpito molto il fatto che in che senso? No, nel senso che è proprio sotto a vigilia delle elezioni, insomma. Il campionato di calcio di Serie A non si conclude a maggio. Giusto, ma quello che volevo dire io però era il fatto che far salire sul pullman del Milan uno come Lassini, insomma, intendiamoci, lo sappiamo, è il famoso autore dei manifesti, insomma, fuori le biere dal... A me mi sembra proprio una cosa che comunque è legata alla campagna elettorale. Voi sì. Cosa ne pensate? Non saprei, insomma, che sia, i confini sono molto labili, certamente non è impensabile dire al Milan ha vinto lo scudetto proprio in questo momento, perché in questo momento ci sono le elezioni. Qualche spot elettorale lo ricordo anche in un passato abbastanza recente, ad esempio nella vicenda di Ronaldinho, ma è certamente una coincidenza fortunata per chi cercava questa fortuna, ma non mi pare così non mi è sembrata così maliziosa la festa di ieri sera, dico la verità. Tanti nomi vedo invece sul display con SMS 349 238 6666, alla voce allenatori della Juventus. Benitez o Spalletti, come li vedete? Ma bene, Benitez e Spalletti, anzi Benitez più di Spalletti, Benitez forse più di tutti, non credo però che verrà la Juventus, però sarebbe stato l'allenatore ideale l'anno scorso per cominciare a ricostruire un progetto serio, ma l'ho detto mille volte. E se venisse Lippi alla Juve, scrive Sandro da Udine, Lippi non sulla panchina, magari come potrebbe essere quella figura carismatica che all'interno della società manca fatalmente, figura carismatica e con grande esperienza di campo e di calcio, con grande competenza. Non credo invece, Davide, che ritornerà Moggi, questo lo escluderei. Prima di andare da Moreno, provincia di Milano, un tuffo nelle lacrime di Genova, Marco Lignana. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Buongiorno gli ascoltatori. A te. C'è qualcuno che non piange oggi a Marassi? Non credo. A cominciare da Palombo. A Marassi ci sono i tifosi genuani che abitano in zona e che non piangono di certo. Ah, questo è sicuro. Battute a parte, non piange il presidente, anzi, il figlio del presidente, Riccardo Garrone, cioè Edoardo, che ha parlato adesso in sala stampa, si è scusato dicendo che errori ne sono stati commessi tanti, a cominciare da non aver investito per superare un preliminare di Champions League che poteva cambiare la stagione, e che adesso si dimostra una scelta suicida, anche perché i soldi ne perderà tantissimi la Sampdoria da questa retrocessione, approfittando per dire che adesso è l'occasione per fare pulizia generale nella dirigenza, e dicendo che comunque non hanno assolutamente intenzione di lasciare. Beh, intanto Marco, però le pulizie sono continuate tutto l'anno con un andirivieni di direttori generali, con la ricerca dell'erede di Marotta che poi non è stato mai trovato. Sì, diciamo che l'erede di Marotta era anche stato trovato, perché è stato licenziato, comunque è stato spinto alle dimissioni Sergio Gasparin, perché voleva comportarsi come Marotta, è stata questa una delle motivazioni, e questo fa capire molto la situazione, nel senso che loro non hanno evidentemente digerito un dirigente che forse aveva cominciato a mettere in guardia la presidenza sulla situazione, dicendo qui se non si investe si finisce male. Non è un caso che dopo l'allontanamento di Gasparini sia stato venduto Pazzini, sì, che forse non sarebbe stato possibile prima, sì, e che comunque tutto sia nato durante il caso Cassano. A questo punto sì, è stato fatto tanto dai puristi durante la stagione, adesso però bisogna fare quello giusto. Ma cioè comunque Garrone resta? La famiglia Garrone rimane? La famiglia Garrone resta al 100%. È molto probabile che anche per questioni personali, di salute o comunque di anagrafe, sia il figlio Edoardo a salire alla ribalta e a prendere il posto di Riccardo. Restano comunque in una situazione in cui la tifoseria non gradisce assolutamente la presidenza, a differenza di quello che era successo nel 99, quando durante la retrocessione della Sampdoria parte della tifoseria era comunque ancora schierata con la famiglia Mantovani. Sì, sì, sì, sì. È probabile che come dirigente arrivi sensibile l'attuale direttore sportivo del Novara, che sta facendo ottime cose in Serie B. Tanto a questo punto è la serie dove andrà a giocare la Sampdoria, certo, si spera di quindi ricostruire. Ci si porta avanti con i lavori, insomma, si prende uno che in Serie B è il dirigente dell'anno quasi, insomma. Marco, io ti ringrazio. Sentiamo invece, vedo Riccardo Garrone che sta parlando con Sky, sentiamo una battuta, poi andiamo da un ascoltatore, Moreno. Che l'unica, siccome poi bisogna pensare positivo, l'unica cosa che mi sento di confermare, cosa che ho già detto, è che l'impegno della mia famiglia, l'impegno nostro per la Sampdoria rimane lo stesso. E queste sono cose che appunto sentiamo dalla viva voce di Garrone, ma mi sembra una cosa abbastanza chiara, no? Mi sembra una certezza la prosecuzione della reggenza Garrone alla Sampdoria in Serie B. Moreno. Sì, dottor Gianta, buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare della Juventus. Prego. Sentivo che parlavate prima che non avevate la ricetta per farla risalire così. Ma io sicuramente non ho quella ricetta, ma sicuramente so chi è il problema di questa società che si chiama Gioneca. Ognuno ha un nome, ognuno ha il nome del colpevole. Perché Gioneca? Anche l'intervista che hai rilasciato ieri. Che Gioneca, tutte le interviste che rilascia sulla Juventus, a cominciare da quella post Calciopoli fino a quella di ieri. Sono assolutamente imbarazzato. Ma sa, bisogna capire anche quanto peso ha, no, nella giornata, nelle decisioni operative del club. Insomma, ognuno ha il suo colpevole, si dice la colpa della società, la colpa di Del Neri, la colpa della vecchia guardia. Probabilmente è vero tutto, no? È vero tutto, ma non c'è un colpevole unico. Io continuo a pensare che, insomma, che i soldi ne siano stati spesi molti, buttati anche di più. Credo che, insomma, se vogliamo analizzare lucidamente questa stagione disastrosa, perché questo dice la classifica e questo dice il verdetto finale, se proveremo un giorno ad analizzare questa stagione disastrosa, mi sembra che qualcosa si possa pure salvare, che sta in alcuni giocatori che nell'ultima campagna acquisti sono stati presi e che magari che in parte dovranno essere riscattati, ci saranno trattative da fare eccetera, però non mi sembra sia, e oggi è impopolare dirlo, però non mi sembra sia tutta da buttare questa Juventus, perché su gente come Quagliarella, come Matri, come Krasic, come Aquilani qualcosa si può costruire, certamente non Martinez, che è stato pagato un sacco di soldi, che è stato un errore clamoroso compiuto da questa dirigenza, però mi pare che un'ossatura non di campionissimi, non di stelle di prima grandezza, perché quella la Juventus continuano a mancare, un'ossatura ci sia, e su quelle qualcosa può essere costruito con un allenatore diverso. Quale allenatore ancora non lo so, non l'ho capito, probabilmente non lo sanno nemmeno loro signori. Torniamo a parlarne dopo il GR 800 24 00 24, numero verde. A tempo di sport. Dunque, immaginate che io abbia la voce di Del Neri, cosa che non sono in grado di imitare. Ebbene, siamo fuori dall'Europa, ma di dimissioni non mi sembra proprio il caso di parlare, anzi direi assolutamente no. No, non ci penso neanche un po', per quale motivo? Io sono vincolato e rimango vincolato, faccio il mio lavoro al massimo, poi la società deciderà quello che deve decidere. Il bilancio dei risultati non è positivo, ma i grandi cambiamenti impongono grandi difficoltà ed è quello che è accaduto alla Juve. Se rimanevamo senza grandi infortuni, questa l'ho già sentita, per inciso, non è la voce di Del Neri, ma è la mia. Torno a fare la voce di Del Neri. Se rimanevamo senza grandi infortuni, la Juve ha pagato a caro prezzo i cambiamenti. 800 24 00 24, numero verde. Luca Tonico Sky, cosa sta dicendo? Noi quest'anno dovevamo raggiungere il quarto posto, non l'abbiamo raggiunto, forse non raggiungeremo neanche l'Europa League, quindi dobbiamo solo chiedere scusa ai nostri tifosi e sperare che il prossimo anno invece si parta con un altro piglio. Non è che c'era troppo tempo. Questo Tony, ma il Napoli terzo lo avete dimenticato? Scrive Salvatore. No, personalmente no, ma cosa c'è da dire oggi di cronaca? Deve giocare questa sera, farà il suo punto e ci scommetto. Giorgio De Luca fa gli scongiuri da bravo napoletano, scommetto la macchina, facciamo così, fa un punto il Napoli questa sera e festeggia il terzo posto dell'Europa League. Poi Mazzari se ne andrà e si aprirà una nuova stagione. Questo è il mio pronostico. Antonio, provincia di Napoli, buonasera. Salve signor Genta, io volevo la chiamavo proprio inerente a ciò che lei stava parlando. Sì. Innanzitutto il Napoli deve farlo il punto stasera, deve farlo il punto, ma ci devono impegnare per farlo, secondo me non è proprio così facile. Poi volevo dire una domanda a lei più che altro. Anche se per me la diatriba Mazzarri De Laurentiis è stata tirata un po' lì, fomentata un po' più di quanto nel normale, diciamo così, a mio parere il suo parere è corretto, Antonio. Sì. Diciamo che è stata gestita forse nel modo peggiore, no? Sì, però secondo me, so che sono successi, si parla molto anche del giornalismo locale, sono successe alcune cose nello spogliatoio, ci sono giocatori scontenti, secondo me è stata fomentata un po' di più sta cosa, no? Però a me se non concesso che Mazzarri vada via, volevo chiedere a lei, no? Un allenatore come Ranieri, che a me farebbe molto piacere, anche più piacere di Mazzarri, sinceramente, perché ha molta più esperienza anche in campo europeo. Ma lei come lo vedrebbe bene, a Napoli? Ma bene, bene, bene. Ci sarebbero i presupposti, i giocatori adatti? Secondo lei ci sono per questo allenatore? Sì, ci sono, ci potrebbero essere, magari arriveranno. Io lo vedrei bene Ranieri, che è un bravo allenatore di grande esperienza e di estremo buon senso. Insomma, mi sembrerebbe una scelta corretta, anche perché vivere e lavorare con Mazzarri non è semplice, è uno che ti tiene sempre sul filo, quindi qualche crepa, qualche dissapone spogliatoio è anche comprensibile, ma è anche è fisiologico, è normale. Mi pare invece che ci sia questa frattura celata molto male tra Mazzarri e De Laurentiis, e non faccio neanche fatica ad intuire i motivi di questa frattura, nel senso che Mazzarri sa benissimo che questa squadra ha raggiunto il massimo risultato possibile, non può che fare peggio, e come tutti gli allenatori di questo mondo dice: rimango se mi compri dei grandi giocatori in grado di mettermi davvero al pari senza dover fare i miracoli con le prime della classe, cosa che non potrà capitare. Dunque a quel punto Mazzarri ha detto: beh, magari allora vado da un'altra parte, oppure mi metto alla finestra e cercherò di monetizzare con calma la grande stagione che ho fatto ora. Insomma, questo mi sembra grosso modo lo scenario. De Laurentiis ovviamente non l'ha presa benissimo e i rapporti tra i due si sono rotti e questa frattura è stata celata molto a stento, insomma. Maurizio, Roma, buonasera. Ah, buonasera dottor Genta. Io volevo, se sono un tifoso del Milan, se mi consenta brevemente rispondere, ma brevissimamente, senza polemiche, ai tifosi interisti con lo striscione che campeggiava ieri a San Siro: noi siamo campioni senza intercettazione. Sì. Ma finiamola qui, perché torniamo alle cose serie. Sono cose che ci stanno, Maurizio, non c'è niente di peccaminoso in questo. Sì, però, insomma, ecco, sono normali. Abbiamo vinto dopo 5 anni. Un po' rosiconi, diciamo qua. Vabbè, ma è normale, come avrete rosicato voi negli ultimi ma fa parte del gioco. Insomma, la festa di ieri mi è sembrata molto precisa, molto plastificata, se vogliamo, molto spettacolare, però non c'è gioia vera, non c'è felicità vera, selvaggia, se non c'è incertezza. Mi è sembrata qualcosa di molto televisivo e molto costruito. Poi, se vuole, ne parleremo anche. Questi striscioni erano anche qualcosa di accettabile, da quello sul pullman. Com'è che era? Non mi aiuti a ricordare. No, non lo ricordo. Ricordo quello a San Siro, che era: siamo campioni senza intercettazioni. Quello sul pullman. 18 tutti sul campo era, mi pare. Mi suggeriscono dalla regia. E quell'altro senza intercettazioni. Il tema era quello. Il tema è quello. Sì, vabbè, ma ci sta. C'è niente di cui vergognarsi, insomma. Volevo fare delle considerazioni sulla squadra. Sì. Innanzitutto, io, riprendendo anche quello che è stato detto più volte, ritengo che Allegri ha una grandissima capacità, quella di aver adattato la squadra al gioco italiano, al calcio italiano, a squadra solida, aver convinto il presidente che Ronaldinho era un ex calciatore, E poi due considerazioni. Una, ritengo che Boateng abbia davvero cambiato il volto alla squadra, e poi Robinho, che mi ha sorpreso davvero in maniera notevole. E nei confronti di Robinho, anche lei non ha avuto all'inizio di stagione delle parole. Assolutamente. Aveva delle perplessità sul gioco di Robinho. Ne avevo tante di perplessità sul gioco di Robinho. Si è dimostrato un giocatore, un uomo, un ragazzo di grandissima intelligenza, perché lo ha messo a fare il mediano, l'ha messo al tornio e lui ha corso come un mediano. Poi gli dicevano: ah, ma non segni davanti alla porta, per forza, guarda quanti chilometri faccio. Robinho ha giocato quest'anno la sua miglior stagione in carriera, comprese quella Real Madrid, dove doveva essere uno dei tanti lustrini, comprese ovviamente quella al City, dove non si è mai inserito. Ha trovato la sua dimensione, che non è quella di superstar, ma è quella di giocatore di buon talento, di tanta corsa e di velocità, di fantasia. Ha giocato la miglior stagione in carriera, torno a ripetere. Giù il cappello davanti a Robinho. Altre considerazioni condivisibili, e aggiungo che la danza di ieri sera di Boateng è stata l'unica cosa davvero indimenticabile, a mio parere. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo a tuffarci tra le lacrime, ve lo assicuro. Traffico. Cerved Group, il punto di riferimento per un business sicuro e competitivo, vi presenta Strade in diretta. Incidenti e cattivo tempo a condizionare i rientri al termine del weekend. Soffia vento forte su buona parte d'Italia, continua a piovere al nord-est e al centro. Hanno raggiunto i 6 chilometri le code verso Genova sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno sono le conseguenze di un incidente risolto. E in Liguria ci sono code per un incidente anche in entrata a Genova, sulla 12 la Genova-Livorno tra Nervi e l'innesto con la A7. Sono 4 chilometri di coda per un incidente sul tratto toscano dell'autostrada in carreggiata nord verso Bologna tra Incisa e Firenze Sud, e verso il capoluogo emiliano resta trafficatissima la 14 Adriatica tra Marche e Romagna. Sono le conseguenze di un incidente risolto anche le code verso Milano sulla 8, la Milano Varese tra Gallarate e Castellanza. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. In un mercato fortemente competitivo sono le persone a fare la differenza. Randstad, agenzia per il lavoro internazionale che si occupa di ricerca, selezione, formazione e somministrazione di risorse umane, ha i numeri giusti per diventare il partner nella ricerca del personale. Randstad, presente in 43 paesi con oltre 4.000 filiali e 27.000 dipendenti, è la seconda agenzia di servizi Human Resource al mondo. Affidabile e professionale, attraverso l'applicazione di un modello operativo rigoroso, Randstad dà forma al mondo del lavoro, agevolando l'incontro fra domanda e offerta per garantire l'eccellenza del servizio e la soddisfazione di chi offre e cerca lavoro. Maggiori informazioni su www.randstad.it. A tempo di sport. Diversi amici sandoriani in lacrime in questo momento, uno di questi è Guido Bagatta. Ciao Guido. Sì, buonasera, abbastanza. Anche senza voce, ma non perché ho urlato contro Garrone. Senti, ma Garrone ha detto che resta. Qual è stato il peccato originale di questa stagione, secondo te? Non tenere Storari, per prima cosa, per 1 milione di euro. Miglior portiere del campionato, in assoluto un errore clamoroso. Poi prendere con la Champions un buon allenatore, ma assolutamente inesperto, come Di Carlo, che ha fatto un errore clamoroso di inesperienza togliendo Cassano sul 3-0 a 3 minuti dalla fine per fargli prendere gli applausi, e praticamente cambiando l'equilibrio della squadra prendendo quel gol che poi ci ha portato i supplementari. E poi vendere, al di là del discorso Cassano che abbiamo fatto più volte con Garrone, anche con te mi sembra una volta, e la terza cosa, svendere Pazzini in un momento in cui non ce n'era veramente bisogno. L'avesse tenuto, lo venderebbe fra 2 settimane a 20 milioni di euro, avrebbe guadagnato lui, la Sampdoria sarebbe in Serie A, tutti saremmo più contenti. Questo è un breve riassunto. E forse mettiamoci anche un peccatuccio di presunzione: quando è stato venduto Pazzini sono stati chiamati Macheda e Biabiani e hanno detto ma tanto noi facciamo grandi anche questi. Sì, Biabiani oggi ha segnato, però onestamente è un giocatore ogni tanto imbarazzante. Ultimo, ma non ultimo peccatuccio, l'aver venduto Marilungo, che è un giocatore fenomenale, all'Atalanta. Complimenti appunto a Percassi che se l'è preso, chissà perché, a titolo definitivo a metà stagione, soprattutto avendo già in mente di vendere Pazzini. Guido, il futuro come lo vedi? Futuro lo vedo credo, guarda, non so bene perché l'arrivo del figlio di Garrone, lui è sempre stato molto defilato, tra l'altro le voci hanno sempre detto che lui fosse uno di quelli che non sentiva molto la vicinanza della famiglia alla squadra, quindi vedo un futuro non splendido, anche perché io ho un amico vero che si chiama Urbano Cairo e tutti state vedendo la fatica che sta facendo Urbano in Serie B col Torino, nonostante abbia messo un sacco di soldi, un sacco di passione, rischia addirittura anche quest'anno di non venire in A, quindi la B è una trappola anche se c'è buona volontà e se ci sono i soldi a disposizione, quindi non lo vedo molto roseo. Staremo a vedere, a capire, però la fatica ci sarà. Ti lascio risparmiare la voce perché magari stasera è una gara 7 da raccontare. No, sicuramente, volevo solo dire un'ultima cosa. Ma certo. Grandissimo onore ad Angelo Palombo, sì. Dovrebbe essere portato veramente come esempio per tutte le situazioni dove una squadra perde, tutti gli altri vanno in spogliatoio, lui era capitano, sì. Ma non era assolutamente così costretto, non c'era nel suo contratto di fare quello che ha fatto. Ha dimostrato di essere una persona straordinaria, probabilmente lui l'anno prossimo non sarà in Serie B perché è giusto che abbia un altro tipo di piazza, però tanto di cappello ce ne vorrebbero 11 per ogni squadra. Paragonato a un altro capitano come Gattuso, visto quello che ha fatto Gattuso settimana scorsa, viene veramente da dire bravo Angelo, siamo stati orgogliosi di averti qui per piatto. Mi sembra corretta, caro Guido. Grazie, buon lavoro. Prego, un abbraccio, buon lavoro. Raccomando, non perdete gara 7 anche tu. Ma figurati, corro a casa a vedere Memphis, Oklahoma, ma di sicuro 21:30 arrivo preciso. Maurizio da Catania, buonasera. Buonasera. Guardi, io sono un tifoso della Roma in esilio perché vivo a Catania. Però oggi mi sono ben guardato di andare a vedere la partita perché sapevo che non sarebbe stata una giornata felice. Il mio intervento è questo, è brevissimo. Ho sentito i commenti di Montella riguardo alla prestazione della Roma. Sì. E veramente inviterei voi giornalisti che avete la possibilità di controbattere, eccetera. Basta con queste lagne, queste scuse. Dicono delle cose così ovvie, banali. Manca questo, manca Tizio, manca Semprano. Quando tutti abbiamo visto la Roma in difficoltà, tutto l'anno si può dire, anche atleticamente. No, ma sentire Maurizio, queste scuse è vergognoso. Insomma, non siamo scemi, Maurizio, spettatori di calcio. Io non ho da qui la possibilità di ribattere a Montella in questa sede, insomma. Però è quello che ho detto prima, no? È l'elenco degli infortunati che tutti possono fare e mi sembra che equivale all'elenco delle scuse, perché non si può dire abbiamo fallito perché ho avuto tutti questi infortunati. È un discorso che possono fare tutti quelli che perdono, no? In realtà la Roma mi sembra una squadra a fine ciclo, a fine corsa, è una squadra da ristrutturare, vedremo se avranno abbastanza risorse economiche, abbastanza idee abbastanza chiare, abbastanza lungimiranti, quindi questo è il senso, il resto sono scuse e aria fritta, a mio parere. Io saluto e ringrazio un allenatore toscano nell'anno degli allenatori toscani, Silvio Baldini. Buongiorno Silvio, grazie. Buongiorno a voi. Senti, Allegri il Livornese, l'altro Livornese, Mazzarri, insomma è la loro stagione, è la stagione dei Livornesi. Tu sei nato un po' più a nord, mi pare. Sì, io sono massese, in provincia Massa Carrara, ma sono massese io. Io non mi spiego. Sono una quarantina di chilometri di la costa. Non mi spiego come Allegri, che ho conosciuto molti anni fa a Pavia, non mi spiego come abbia fatto a mantenere questo controllo e questa lucidità. Non si è scomposto mai nemmeno un momento. Bravo lui. Fagli i complimenti, no? Quando uno che tu l'hai conosciuto ha dimostrato questa calma, questa amplomba, quindi fagli i complimenti, dai. Qual è stato il suo grande merito, secondo te? Di stare tranquillo, di non perdere mai la pazienza, di non avere mai atteggiamenti che dimostrassero la difficoltà in cui si trovava. Ha sempre fatto le cose con nonchalance, dai, via. È sempre stato uno tranquillo. Il Milan credo che abbia vinto meritatamente. Non ho impressionato, perché credo che questo anno sia dell'Inter, la Roma, tutte le altre, insomma, ci hanno messo del suo per non essere validi antagonisti, però quando uno vince, insomma, non è che sì. Bisogna trovare... Sicuro. Quando uno vince ha vinto, tanto di cappello, complimenti al Milan, complimenti a Allegri, per lui, per la sua carriera. Tanti dicono una carriera che io non, francamente non capisco, campionato mediocre, campionato di basso livello, di alto livello. Io un campionato che ho trovato divertente, poi non riesco a capire quali siano i parametri per dire basso, alto. È normale, ti faccio dire, io faccio il tifo all'Inter, se mi rosica ti posso dire sono sempre, dai, è sempre un modo di comportarsi di chi non vuole accettare la sconfitta, no? E questo fa parte un po' di noi italiani che non vogliamo mai riconoscere i meriti dell'avversario. Sì, certo, quindi allora, certo, allora ci si trova 3.000 situazioni per non dare appunto onore a chi vince. Invece, insomma, quando uno vince, vince. Lui deve stare a dire che è un campionato forte, bello, brutto. Ah, vinto. Mi sembrano un po' seghe mentali, anche se non so se si può dire a quest'ora. Voglio di dirlo, perché io ho imparato che quelli che dicono no, che bisogna avere il look, non avere la barba, no, non te lo racconto, lo sai perché? Ma te lo racconto con molta franchezza, no? Perché sì, una volta io sono andato a Parma, e mi raccontavano, insomma, che quando c'era la gestione appunto di Tanzi, tutti si dovevano fare la barba, no? Guai se qualcuno avesse avuto la barba, perché insomma non davano immagine, poi tutti gli italiani sanno come è andata a finire, no? Chi non aveva la barba, una cosa combinata, voglio dirti. E sono sempre queste stupidaggini che inventano, no? Alle persone bisogna sempre prendere il meglio, no? Certo. Poi è normale che se uno fa il pastore è più portato ad avere la barba, però sì, può darti delle emozioni, può darti delle intuizioni, può dare delle espressioni molto più valide di quello invece che si comporta vestito tutto per venire. Certo, noi abbiamo la nostra barba e ce la teniamo sia io che te, mio caro. Ma io non faccio per difendere chi ha la barba, anche chi ha la barba, che sicuramente sì, vale meno di chi non ce l'ha. Ah, sicuro. La nostra società gli piace sempre trovare, no? Delle persone che abbiano determinati requisiti. Bravo. Ma invece bisogna cercare di capire che ogni persona ha la sua creatività e se la porta dentro dal suo DNA, e bisogna accettare per quello che è, basti che uno rispetti le regole che noi viviamo, no? Ma sicuro. Se ci sia rispetto degli altri, poi ognuno può fare quello che vuole. Non è da questi particolari che si giudica un allenatore, caro Silvio. Senti, ma ha fatto un grande, ha fatto il miracolo vero Allegri con il Milan e con Ibra, o Mazzarri con il Napoli e con i giocatori contati? Allora, intanto mi ho detto, non bisogna trovare scuse, bisogna fare complimenti a Ibra, oramai è diventata consuetudine, ma questo è l'ottavo campionato di fila che vince. 10 su 11, 10 degli ultimi 11. Ha perso solo nel 2003. Allora, uno che vince 10 campionati su 11, quello è la normalità. Quindi. E invece direi che Mazzarri, insomma, dai, con una squadra che non era partita per. Era una partita per fare un buon campionato, per cercare di arrivare in Europa League, invece addirittura a un certo momento è stata la vera antagonista del Milan, quindi direi che nelle difficoltà, vuol dire, quello che ha dimostrato qualcosa di diverso sia stato Mazzarri. Poi dopo, se vogliamo dire che chi vince è più bravo, allora è stato Allegri. Ah, sicuro. Ma ti chiedo ancora questo, visto che parlavi di Luke, Mazzarri ha le physique du rôle per allenare la Juventus? Faccia d'allenatore da Juve? Ma non è quello, Mazzarri è un grande allenatore, uno che sa fare benissimo l'allenatore, ma non è una questione di immagine che conta, è una questione di comportamenti, no? Credo, perché poi quel che dico io quasi non vale niente, quasi non abbia neanche significato, però io credo che una persona nella vita deve avere una sua coerenza, e credo che Mazzarri da questo punto di vista latita un po', perché lui, sia quando andò via dalla Sampdoria, trova sempre delle scuse per aver paura di dire io non me la sento più perché ho fatto il massimo, e quindi più di così non posso ottenere, quindi io mi faccio da parte, grazie a tutti. No, e invece vuol sempre trovare una scusa, un appiglio per la paura che il lavoro che ha fatto venga minuito, no? Ma questo sono d'accordo. Non è vero. Cioè, uno dovrebbe essere molto coerente. Ma anche perché, Silvio, da allenatore è un discorso che, insomma, io prima lo dicevo, mi sembra tutto molto scontato, molto chiaro. È arrivato dove più in alto non si può. Se rimane lì, non può che fare peggio. Quindi questi sono conti che un allenatore fa, no? Ma cosa ci vorrebbe dirlo? Lo so. Un re, non è, però se uno non lo dice perché non fa parte del suo pensiero, non fa parte del suo modo di vivere questo mestiere o di comportarsi, non lo so. Però ti ripeto, a me è un allenatore molto antipatico, l'ho sempre detto perché, no? Per questi motivi, perché quando lui perde l'ultima volta, come hai visto con l'Udinese, una partita che l'Udinese ha giocato benissimo, dice hanno fatto 3 tiri in porta, hanno fatto 2 gol, cioè non riconosce mai i meriti dell'avversario, non riconosce mai la situazione, vuol sempre blindarsi dietro a dei falsi problemi o a delle falsità, no? Cerca di blindare il suo modo, il suo pensiero, e questa cosa che secondo me gli va molto a discapito. Però sì, sono d'accordo. Da cui il soprannome Lamentino. Vedi che non per niente poi i soprannomi non arrivano. Perché? Il problema è un altro, no? Che come tu sai bene, Marotta, quando è andato, niente, lui aveva il contratto e non l'ha tenuto, e ha preso appunto Del Neri perché non ne poteva più del lamentele fra lui e Cassano, no? Guai a lui, insomma, dire che aveva un problema con Cassano, invece tutta l'Italia lo sa che quando lui non è stato riconfermato è perché c'erano dei problemi con Cassano, no? Sì. Anche questa maniera da nascondere, insomma, le difficoltà che uno ha, cioè la paura sempre di essere giudicato, non so, magari pensando di essere giudicato in maniera negativa, allora uno cerca sempre di nascondere, ma sì, come sì. Quando uno a scuola cerca sempre di copiare per prendere un bel voto, il bel voto non è il suo, invece magari a volte è meglio prendere 5 o 4 e imparare, no? Perché poi alla fine e metterci la faccia, eh? Bravo, no? E questa è una maniera che a me di lui non piace, però ti ripeto, Marotta appunto che non l'aveva riconfermato, ora che ha la Juventus che si trova in difficoltà, cosa fa? Scarica appunto Del Neri, sì, e va a prendere uno che per prenderlo veramente è dura, però la posizione che lui occupa, no? La posizione con questo fatto di essere il direttore della Juve, di essere la Juventus che è stata la società fino a pochi anni fa, che nel mondo insomma era quella più potente, più forte, sì. E perdere, insomma, per perdere questa chance uno allora accetta anche di prendere uno che non lo sopporta, ma questi sono... Beh, adesso vediamo se poi alla fine lo prende, io non sono convintissimo, ecco. Silvio, io ti ringrazio, è sempre un piacere parlare con te, sì, perché... comunque ti volevo dire l'ultima cosa. Dimmela. Le voci, insomma, di chi conosce il sottobosco del mondo del calcio lo danno molto vicino, perché più che Marotta hanno mandato Pratici a avere questo incontro, insomma. Comunque non lo so, le voci sono queste, bisogna appunto crederci, perché insomma se a volte vengono fuori queste cose lo sai che c'è sempre un piccolo fondamento. Questo sicuro. Comunque niente, grazie a te. Voi grazie a te, ci sentiamo, presto, anche perché insomma mi sembra che hai un po' paura a dire le cose, porca miseria. Grazie a Silvio Valdini, mi sembra che abbia aggiunto qualche spunto di discussione, che ne dite? 800 24 00 24, Gabriele di Bologna, da Bologna, è il primo, ma dopo questa breve pausa. Sono Roberto Biffi e dirigo la divisione di chirurgia addominopelvica all'Istituto Europeo di Oncologia. Con i miei collaboratori abbiamo sviluppato al massimo grado di applicazione la chirurgia robotica. Oggi il cancro si può sconfiggere. Aiutalo IEU con il tuo 5 per 1000. Campagna sociale. Macchina nuova. Hai vinto a poker? No, ho dimezzato l'assegno di mantenimento di mia moglie. Poverina. Ma che poverina? Guadagna il doppio di me lavorando in nero. Hai bisogno di prove per cause di separazione e divorzio? Affidati ad Axerta, la prima agenzia investigativa specializzata nella raccolta prove. Scopri i vantaggi di un'investigazione Axerta anche nei casi di affido minori, concorrenza sleale e licenziamento per giusta causa. Axerta. Indaga, documenta, accerta. Preventivi gratuiti su axerta.it. Per un buon tuffo dal trampolino da 10 metri è fondamentale lo slancio iniziale. Vai, fammi vedere. Bravo, ora lo farei con la piscina vuota. Sarà ancora più divertente. Ma dove vai? Dai, scherzavo! Senza sicurezza c'è poco da divertirsi. Subaru Forester Widget 2011, 4.000 euro di vantaggio e un allestimento più ricco. Da 25.980 euro, anche con finanziamento fino a 20.000 euro in 48 rate da 469,25 euro. TAN 2.9 TAG 3.96. Fino al 31 maggio, salvo approvazione istituto erogante, info negli showroom aderenti. Con la nuova Xerox Color Cube 8570 in ufficio sono solo complimenti. Che stampe a colori eccezionali, anche su carta riciclata. Che belle scarpe, visto? E con Xerox Color Cube 8570 hai anche 200 euro di rimborso. Vai su xerox.it/promo. Extracomunitari e zingari, profughi o clandestini, basta pregiudizi. Siamo fratelli e sorelle d'Italia. Con il tuo 8 per 1000 alle chiese valdesi e metodiste piantiamo semi di pace e giustizia. Promuoviamo opportunità di lavoro, cultura e formazione in Italia e all'estero. Non un euro viene destinato alle spese di culto. 8 per 1000 ai valdesi. Campagna 8 per 1000 dell'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi. www.8permillevaldese.org. Campagna sociale. Possiedi personalità. Acqua San Benedetto ti dedica il suo tè verde, sano, leggero e con un gusto unico, come sei te. Tè verde San Benedetto, unico come te. Non siamo una famiglia, siamo una ditta. Eppure da un momento all'altro alcuni di noi rischiano il posto. Vincitore di un Golden Globe e di 4 premi Oscar. Il discorso del re, il film dell'anno. Dall'11 maggio in DVD e Blu-ray Eagle Pictures. Se vuoi un'auto tricolore, scegli l'azzurra. Fiat festeggia l'unità d'Italia con la nuova Punto 150. Motori Euro 5, start and stop, ESP, climatizzatori, radio CD MP3, fendi nebbia, cerchi in lega. Tutto di serie. E se vuoi, anche con l'esclusivo colore metallizzato Azzurro Italia. Nuova Punto 150 a 9.900 euro con la trasparenza del prezzo vero Fiat. Offerta valida con il contributo dei concessionari Fiat fino al 31 maggio. Per una volta non guardate la televisione, ma il vostro televisore. È bello come la vostra casa? Elegante come il vostro guardaroba? Avanzato come la vostra auto? Allora avete già un Loewe. Fino al 30 giugno il vostro vecchio televisore Loewe o non Loewe vale 300 euro per passare ad un nuovo TV LED Individual Connect o Art. Loewe, design purissimo, immagini perfette, audio da sinfonia, internet e una lunga tradizione made in Germany. Loewe ha inventato la televisione 80 anni fa e non ha mai smesso di guardare avanti. I dettagli su loewe.it. A tempo di sport. Roma, una bellissima regina, si chiama Maria Sharapova, che ha vinto gli internazionali d'Italia battendo Samantha Stosur 6-2, 6-4, 1 ora e 23 di gioco. Questo è il risultato della finale femminile. E dopo il timido Silvio Baldini, uno che ha un po' paura a dire le cose come avete sentito, ne ha avute per tutti, soprattutto per Mazzarri. Ecco che tornano gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Gabriele da Bologna, poi Ivan da Modena. Buonasera Gabriele. Buonasera, naturalmente mi congratulo per la trasmissione e volevo propormi due temi. Sì. Il primo collegato a quello che avete detto fino adesso, agli allenatori. Io per solidarietà generazionale forse, ma ho una grande simpatia per Franco Colomba, un allenatore che è stato poco valutato l'anno scorso ed è stato paradossalmente poco valutato all'inizio dell'anno con quella incredibile esonero. Sì. Poco valutato lì, anche in questo finale di stagione. Gabriele, questo all'inizio di questa stagione è stato talmente strano, sui generis, bizzarro, eccetera, che quasi non lo metterei nel conto. Direi che Colomba ha fatto un grande finale di stagione con il Parma, che era una squadra in seria difficoltà, ed è riuscito a salvarla con grande anticipo, anche con grande autorità e autorevolezza. Sì, io dicevo comunque, Colombo un allenatore veramente malesani, si è ricostruita la carriera grazie alla stagione di Bologna, però Colombo 2 anni di fila ha preso 2 squadre e le ha super performate rispetto a quello che potevano rendere l'anno scorso il Bologna e quest'anno quello che avrebbe reso il Parma. Mi sembra che abbia veramente fatto cose eccezionali, insomma, e che sia stato poco valutato per questo, in confronto ad allenatori che tutto sommato hanno avuto nella carriera quel colpo di fortuna in più, come Mazzarri, come... Guardi Gabriele, alla fine sarà banale dirlo, ma il lavoro paga, tanto che Colomba grosso modo una panchina la trova sempre, proprio perché ha questo credito e proprio perché i risultati che ha ottenuto sono stati splendidi nelle ultime stagioni. Insomma, ha avuto questa vicenda inizio anno col Bologna, che però non c'entra nulla con questioni calcistiche, semplicemente arriva un nuovo proprietario che vuole un altro allenatore, manda via Colomba e prende un altro allenatore. È stato chiamato a Parma e ha fatto un altro splendido lavoro. L'anno prossimo mi aspetto di vederlo in panchina e credo che questo sia il giusto premio per un allenatore bravo come Colomba. Ivan Modena, buonasera. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare i complimenti per l'intervento di Baldini, che mi ha stimolato la telefonata, veramente un grande. Aveva qualcosa da dire, eh? È stato diplomatico, l'ha detta piano. Esatto, l'ha detta piano e soprattutto su Mazzari, siccome la penso esattamente come lui, ho detto cado a fagiolo, telefono anch'io. No, chiamavo per l'allenatore della Juventus, volevo sapere, visto che purtroppo la Juve negli ultimi anni come strategia e tempi fa fatica a prenderci, volevo sapere, secondo me l'anno scorso ci avevano preso a scegliere un allenatore giovane, purtroppo è andata male, quest'anno hanno scelto uno d'esperienza, è andata male, ma quanto può permettersi di rischiare Agnelli a prendere un'altra volta un allenatore giovane al quale, ispirandosi ad Allegri, potrebbe, dico Conte, o non lo so qual è quello giusto, dico, No, l'ha detto Baldini, no? Ha detto che Mazzarri è comunque vicinissimo alla Juve, almeno così ha detto Baldini, e c'è stato questo incontro con Paratici, non so se l'ha detto perché lo sa, perché ci crede o per bruciare la notizia, questo, a questo punto mi viene il sospetto. No, io continuo a dire che sul capitolo allenatore della Juventus, la Juventus ha bisogno di una figura carismatica, quindi che stia in panchina, dove sarebbe anche più normale, o che stia dietro una scrivania. Si parla di Lippi direttore generale nei vari vaneggiamenti di pseudomercato. Insomma, la Juventus serve una figura carismatica. A mio parere, prendere Mazzarri, che è un bravissimo allenatore, al di là di tutto quello che si può dire, al di là delle critiche e delle battute che si possono fare, è un bravissimo allenatore Mazzarri, certamente con un carattere molto particolare, però prendere Mazzarri o prendere Conte mi sembra un po' la prosecuzione del discorso del Neri. Sono allenatori che non, per ragioni anagrafiche o per questioni di carriera, non hanno mai allenato una grande squadra, non hanno mai realmente vinto un grande torneo, un grande trofeo. Secondo me la Juventus ha bisogno di un allenatore che invece questa strada la conosca e che faccia anche pesare il suo carisma, il suo palmarès, il suo medagliere, la sua argenteria. Non dico che debbano prendere Mourinho, però uno che sia in grado di parlare avendo credibilità alla gente, all'ambiente bianconero, beh, quello servirebbe. Che poi sia Benitez che non verrà, che sia Mancini che ieri ha vinto ancora un trofeo in Inghilterra, e mi sembra che al City fosse qualche annetto che non vincevano nulla, anche se hanno speso molti soldi, che sia chi volete voi, Hiddink, che di cui si era rimbalzato il nome nei giorni dell'esonero di Ferrara, che sarebbe stata la scelta perfetta secondo me per la Juventus, che sia uno di questi, però secondo me dovrebbe cercare uno di questi la Juventus, questo è il mio parere almeno. Non so se anche quello molto più lontano di Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. La Juve prende Mourinho. Insomma, gli farebbe bene alla Juve. Sì, comunque sono d'accordo con te, ci vuole un allenatore con pedigree europeo. Senti, ma io ti ho pensato ieri, tu sei ormai da anni sei in Spagna, ci racconti la Spagna, racconti a noi, alla Gazzetta, ai lettori della Gazzetta, a tutto il mondo la Spagna, però ieri quando ho associato le due squadre di Manchester nello stesso giorno in un unico trionfo, ti ho pensato per i tuoi passati britannici. Immaginati Manchester ieri. Beh, insomma, interessante, se non sono volati troppi bicchieri, se la sono cavata, deve essere stata una grande giornata. Anch'io ci ho pensato a questa città così doppiamente vincente, perché non è una cosa che succede spesso, nemmeno a Londra, che ha tantissime squadre, non è che succeda così spesso di vedere vincere due squadre della stessa città, e soprattutto quando poi una, sì, come dici tu, ha speso tanto, però non vinceva da quanto? 35 anni, insomma, deve essere stato interessante. E personalmente a me fa piacere per vedere cosa può fare poi veramente il Manchester City. Sì. E beh, sai, quando cominciano ad arrivare i titoli, poi arriva anche la credibilità internazionale, arrivano i giocatori e si può aprirsi qualcosa di interessante, come è successo con il Chelsea, che ha vissuto una vicenda per molti aspetti simile. Filippo, dimmi invece della Spagna, ennesima colata di zucchero sul Barcellona in settimana, il titolo festeggiato con Abidal nel giorno in cui Abidal torna a titolare in campo, eccetera eccetera eccetera, adesso la finale di Champions League in cui il Barça è favorito, non so come si sta avvicinando, come sta vivendo questi giorni, favorito ma non strafavorito con lo United di Ferguson. Diciamo che lo United ha accorciato le distanze. Un po' anche per demerito del Barcellona, che arriva un po' scarico. Adesso hanno avuto un po' più di tempo per riposarsi rispetto al Manchester, una settimana in più quasi, vabbè, meno, hanno giocato martedì. E adesso devono fare una mini preparazione per rigenerare giocatori arrivati un po' in difficoltà, lo stesso Messi, David Villa, Pedro, ovviamente Puyol ha giocato pochissimo, Abidal appena rientrato, vediamo, insomma, l'umore è buono, il fisico non così tanto. E questa è un po' la situazione del Barcellona. Sì, io ti giro per chiudere la solita domanda che mi arriva da un ascoltatore per te. Kakà giocherà la Coppa America e poi andrà da Sir Carletto o dai campioni d'Italia? Che si dice in Spagna? Ma in Spagna sì, si parla molto, secondo me si spera molto in Chelsea e Milan. Perché ovviamente Kakà è una situazione problematica, nel senso che si aspetta sempre che torni ad essere quello che era. Magari la speranza non è sparita del tutto, forse con una stagione intera, una preparazione buona fatta con Mourinho, magari ce lo ritroviamo a settembre a livelli del pallone d'oro. Sì. Però è una scommessa cara, perché guadagna 9 milioni netti all'anno, però questo ovviamente contribuisce anche alle difficoltà del doverlo vendere, per lo stipendio e per quanto è stato pagato. Io alla fine non so, lo vedo qua a Madrid, perché non so chi può spendere tutti quei soldi. No, naturale, la stessa cosa che penso anch'io, a parte il fatto che Ancelotti andrà via dal Chelsea e si dice possa andare all'Arsenal, ma queste sono storie che l'estate scriverà. Ti piace il rap, Filippo? Sì, come no. Ecco, allora ti saluto con il rap del Milan e ci sentiamo domenica prossima. Rosso nero, shalalala, punta. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'ha. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'ha. Dedicato a Filippo Maria Ricci e a tutti i milanisti. Traffico, poi torniamo, parliamo un po' di Giro d'Italia e vediamo di riuscire a chiacchierare anche con un paio di ascoltatori ancora da qui alla fine. A dopo. Strade in diretta. Il traffico si mantiene intenso verso tutte le grandi città, proseguono i rientri al termine del weekend, non mancano le segnalazioni che riguardano il cattivo tempo, soffia vento forte su buona parte d'Italia e continua a piovere al nord-est e sul centro. Auto ferme causa incidente in Liguria, sulla 10 la Genova a Ventimiglia verso Genova tra Pietra Ligure e Spoturno. Lunghe le code per un incidente in Toscana sull'autostrada in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione del capoluogo emiliano resta trafficatissima la 14 Adriatica tra Marche ed Emilia Romagna. Tra Fermo e Civitanova Marche le code sono per lavori. Noi torniamo tra mezz'ora. Voci dal giro. Ed ecco che torniamo per riaprire una parentesi sul Giro d'Italia. Se non avete seguito e avete sbagliato, perché è stato l'evento sportivo più interessante del pomeriggio tra le molte partite di calcio, c'è stato questo arrivo sull'Etna che sembrava essere una giornata come tante, invece rischia di diventare la giornata che indirizza, forse in maniera definitiva, questo lo chiedo per Augusto Stagi, il Giro d'Italia di quest'anno. Contador vince, è in maglia rosa e adesso chi lo prende più? Questa è una bellissima domanda. E chi lo prende più? Intanto, come dicono i corridori, e Nibali poi nel dopocorso serenamente ha anche detto che se questo non rallenta è durissima, si lotta per il secondo posto. Ha detto certo, così Nibali? Sì. Dichiarazione di resa, quindi, sostanzialmente. No, di resa no, però è anche vero che da un lato devono crescere loro e soprattutto loro, dico Nibali, Scarponi, Kreuziger, Arroyo, Mencio e Sastre, che hanno preso oggi una bella botte, forse sono tra i corridori che hanno preso la lezione più dura di giornata, quindi ci sono dei big ad esempio come Joaquin Rodriguez che perde 2.21, Mencio 2.16, Emanuele Sella 2.09, Sastre 2.21, Domenico Pozzovivo 4.25, Machado della Radio Shack 4.47. Una curiosità: Mark Cavendish è arrivato ultimo, 189esimo, a 26 minuti e 35 secondi, e per 30 secondi è rimasto in corsa. Quindi diciamo che lui ha fatto una volata al contrario, esatto. ha fatto una volata al contrario per rimanere in questo giro, se no lo rispedivano all'isola di Mani immediatamente. Il più forte velocista del mondo, pensate un po'. Senti, esatto. Ti voglio chiedere un'altra cosa, ma non è un po' presto in Sicilia alla fine della prima settimana? Non è un po' presto per andarsi a prendere la maglia rosa, poi, dovendola poi difendere per così tanto tempo? Non so se si può pensare ad una santa alleanza di attaccanti o quello che vuoi, insomma, non è un po' presto? Questo è quello infatti che sperano Nibali e Scarponi, a bocce ferme, come ti stavo dicendo, tra le varie valutazioni che facevano nel dopo corsa, dopo essersi fatti un doccino veloce nel Motoroma, dicevano lui è fortissimo, questo è un corridore che non perde mai una gara a tappe e neanche sotto tortura, anche quelle di una settimana le vince, lui è quasi infallibile, ha la capacità di andare molto molto forte in salita e va molto molto forte a cronometro, quindi bisogna sperare in una giornata storta, in un calo di tensione, in un calo di condizione che magari è eccessiva, cosa che invece magari spera ad esempio Nibali, e io credo che sia più Nibali il corridore che può arrivare alla terza settimana in crescendo. Non credo altrettanto per Scarponi, perché mi sembra che abbia fatto una primavera troppo competitiva, lui sta andando troppo forte da troppo tempo, sì. Ad esempio dalla Tirreno Adriatico, quindi non riesco a capire come possa mantenere una condizione così buona alla fine. Beh, ma dal punto di vista della condizione avrà il peso della corsa, certo, avrà il peso della corsa, ma poi anche in prospettiva, Pier Augusto, quello che ti voglio dire, la condizione oggi siamo al 15 di maggio, che prende la maglia rosa e sembra imbattibile, da qui ad arrivare sui Campi Elisi è lunga, eh? Esatto, lunga, esatto, lunga. Non so se questo può essere di qualche aiuto, può essere un appiglio per Ivan Basso al Tour o per quelli che stanno correndo sto giro, però da qui ai Campi Elisi è lunga, ce n'è di tempo e di strada. Esatto, quindi dai, il peso della corsa è di Contador, che è sicuramente forte, ha una buona squadra, non buonissima. Da dopodomani dovranno cominciare a tirare la carretta come si dice, gli altri possono giocare di rinessa, se sono bravi lo possono mettere in mezzo, e se no bisognerà dire bravo e se no ciao lo aspettiamo a Milano col mantello rosa. Grazie Pier Augusto, noi racconteremo tutto comunque ogni giorno. Grazie Pier Augusto. Voci dal giro. Così torniamo per chiudere con gli ascoltatori, che oggi sono stati numerosissimi, ma avrei voluto insomma, riuscire a parlare con più ascoltatori, ma non, insomma, ci serviva tutta la sera e dobbiamo vedere il Milan, poi parlare di vedere l'Inter, poi parlare di Inter-Napoli, poi parlare di basket, eccetera. Ma una pur minima critica per come Allegri non ha preparato dover la semifinale di Palermo, non la fate. Innanzitutto bisognerebbe capire se a quella finale di Coppa Italia il Milan puntava sul serio. Secondo me, io tengo i miei dubbi, ecco. Per ragioni di festa, per ragioni di voler evitare di complicarsi la vita con un derby all'ultima partita stagionale che se poi vince l'Inter un po' di fastidio te lo dà, eccetera eccetera. Il Milan chiaramente non ha preparato bene la semifinale col Palermo, anzi ha preparato del tutto male, però non so quanto volontariamente o involontariamente, insomma. Massimiliano da Napoli, poi Antonio da provincia di Frosinone, rapidamente ce la facciamo. Dica Massimiliano. Sì, buonasera a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie. Poi volevo fare anche complimenti al Milan che ha vinto questo scudetto. Io sono un tifoso della Juventus e praticamente volevo capire, no? Dato che ci sono piombati un sacco di giocatori del campioni del 2006, sì. C'è arrivato un allenatore che sinceramente a me non l'ha soddisfatto, sì. A questo punto sinceramente perché non chiamare Marcello Lippi, che sinceramente ha tanta esperienza ad allenare? Ad allenare? Sì, alla Juventus per l'anno prossimo. Guardi, ogni valutazione quella a diritto di cittadinanza in questo momento e alla luce dei risultati della Juventus di quest'anno disastrosi, mi sembra che un terzo richiamo sia davvero troppo. Magari con un ruolo diverso da quello da panchina, potrebbe essere l'uomo giusto, ad esempio per guidare la Juventus, per far da tramite tra allenatore, società, tifosi eccetera, essere l'uomo di grande personalità e di grande carisma che manca alla Juventus in questo momento. Manca Antonio, provincia di Frosinone. Buonasera. Grazie per avermi dato l'opportunità di sfogare questa mia rabbia. Vuole Lippi in panchina? No. Chi vuole in panchina? Assolutamente. Chi vuole? Io preferirei un allenatore giovane come sì. Conte. Sì. Che se non altro ha l'anima juventina e quindi darebbe il massimo. Come Ferrara, uguale. No, no, Ferrara lasciamo perdere, perché io ho detto spesso e volentieri che Ferrara e Cannavaro all'epoca del trio lì si sono vendute parecchie partite. Ma non credo proprio. Sì, ma... Sì, io ho la mia idea. No, ma questa è un'idea, però dalle chiacchiere ai fatti ci vogliono le prove, caro Antonio. Io a questa cosa non ci credo minimamente. Secondo me Ferrara era, come sta d'altra parte dimostrando all'Under 21, era un allenatore molto giovane, di nessuna esperienza, che è arrivato in un luogo in cui non è stato adeguatamente supportato dalla società e anche dai giocatori, da quelli che soprattutto erano i suoi vecchi compagni di squadra. È stato un po' bruciato da questa situazione e penso che con Conte, non dico si ripeterebbe lo stesso errore, però è una situazione, una soluzione che un allenatore così giovane, anche se con un minimo di esperienza, insomma, rischierebbe di bruciarsi le dita a sua volta, anche perché l'allenatore giovane può andar bene, anche se viene da categorie minori, però in un club consolidato, in un club che ha una struttura diversa da quella che ha la Juventus in questo momento. A mio parere serve qualcuno che abbia grande esperienza e grande carisma. Torno a ripeterlo, ma sono temi sui quali avremo tutta l'estate per confrontarci. Adesso chiudiamo qui ringraziando Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. Ci sentiamo ovviamente più tardi per l'ultima giornata del campionato di basket e per raccontarvi quale sarà la griglia dei playoff. Appuntamento dunque dalle 20:30 alle 21:00. A dopo.